Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Questa stufa che c'è e non basta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM nella frequenza di Roma. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza E questo spazio radiofonico è ora di buco, scusate, lavoratrice e lavoratori della scuola parlano di scuola. Ammazzare cattivi è sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi i libri di storia, noi siamo i buoni perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti. E Radio Onda Rossa, il sito è www.ondarossa.info, da cui ci potete ascoltare in streaming, scaricare in podcast le corrispondenze, le trasmissioni, anche quella, anche appunto l'ora di buco già fatte. Potete anche vedere le prossime iniziative della radio, perché vi ricordiamo che questa radio non campa d'aria, non campa di finanziamenti, non campa di pubblicità, ma del sostegno di tutte e tutti noi. Ed in particolare vi ricordiamo che proprio domani sera, mercoledì 19 dicembre, al CSOA Forte Prenestino ci sarà la presentazione di Scarceranda 2013 alle 8:30, la cena a sostegno di Scarceranda e della radio, e alle 21:30 come ospite ci sarà Ascanio Celestini, che presenterà il suo ultimo libro, Pro Patria. Per quanto riguarda invece l'ora di buco, il nostro blog è oradibuco.noblogs.org e la mail oradibuco@ondarossa.info. Siamo dalla strettissima attualità, perché come avrete letto sui giornali in questi giorni, proprio ieri è cominciato il concorso indetto da Profumo per la stabilizzazione di 11.000 docenti precari nella scuola pubblica italiana. Da questi microfoni ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo sentito la voce dei precari e delle precarie e quindi le motivazioni dell'opposizione a questo concorso. Le prove appunto sono iniziate ieri mattina in molte scuole che sono state chiuse appositamente, perché in ogni scuola pochi e poche espletavano queste selezioni, dal momento che servivano postazioni online e quindi venivano fatte nelle sale multimediali delle nostre scuole, che come sappiamo non sono insomma tantissime. Quindi molte scuole sono state chiuse in questi due giorni per dare la possibilità di espletare queste prime prove preselettive, che diciamo sono state argomento di contestazione nella contestazione, perché si trattava di domande a crocette non inerenti ai temi, alle materie, insomma, che qualcuno, che chiunque poi sarebbe andato a insegnare, ma domande di logica, di lingua straniera, di informatica, eccetera, eccetera. Se vogliamo dire due parole su quanto abbiamo appreso, insomma, essere accaduto in questi giorni. Sapevamo già precedentemente, insomma, che gli iscritti e le iscritte erano 320.000, che sono un numero considerevole. Di questi 320.000 sembra che l'80% più o meno si sia presentato a fare la prova preselettiva e sia stato ammesso al concorso vero e proprio poco meno del 35% di chi ha svolto la prova, se ho ben capito. Sì, i dati sono grosso modo quelli che hai detto tu. L'80% dei presentati e obiettivamente sono molte persone, e in realtà solo il 33% avrebbe superato ad oggi la prova. Ricordiamo però che le procedure del concorso sono dati provvisori, insomma, nel senso che le procedure del concorso si stanno ancora svolgendo, perché evidentemente, essendo i candidati frazionati nelle diverse scuole e nelle singole aule informatiche, si svolgeranno nel corso di tutta la giornata di oggi. Però diciamo, come dato, per quanto provvisorio, grosso modo risponde a quello che era stato dato ieri, ed è evidente la discrasia tra il numero delle persone che si sono presentate e il numero delle persone che hanno effettivamente superato il concorso. Diciamo il 33% è una stima nazionale, però ci sono punte in realtà del 20%, mi sembra, in Calabria, ed evidentemente punte superiori al 33% mi pare in Toscana. Sì, diciamo che quindi possiamo prevedere che a fine tornata, diciamo questa prima tornata, ha raggiunto l'obiettivo, perché sostanzialmente uno su tre si è salvato e può dimostrare di essere un bravo insegnante, sapere la materia e saperla insegnare. Quindi ci aspettiamo che a gennaio o febbraio sostengano gli iscritti tra gli 80 e 90 mila docenti di tutte le scuole, di tutti gli ordini, di tutta Italia. E, è una stima, però pare che la percentuale sia praticamente identica a quella di ieri, quindi con differenze nel centro-nord rispetto al sud, però ormai la selezione doveva essere fatta su questi quiz che abbiamo presentato anche negli ultimi tempi, e dunque Sì, c'è una considerazione così di carattere assolutamente generale che mi viene in mente di fare, e cioè 320.000 candidati tra gli 80.000 e i 90.000 selezionati sulla base delle prove di cui abbiamo dato conto la volta scorsa. E non dimentichiamoci che questa è generazionalmente quella categoria di persone a cui è stato detto che per lavorare era necessario specializzarsi, studiare, che era necessario, diciamo, sommare a lauree triennali e poi specialistiche, dottorati, master e così via, e che poi, diciamo, si vedono preclusa una possibilità sulla base di test che sono, diciamo, del genere grosso modo di quelli di cui abbiamo dato conto nelle volte scorse. I media, i giornali hanno fatto il profilo, no? Del candidato o della candidata, in questo caso la candidata media, che aspira a questo, uno degli 11.000 posti a disposizione, ed è donna ed è a 38 anni e ha in genere anche, diciamo, un passato nella scuola, anche se dobbiamo dire che c'è una grossa fetta. È una donna con un passato. E forse senza futuro. Futuro, sì, direi di sì. Diciamo 90.000, quindi bisogna ancora toglierne 80.000 da questi, e quindi ci saranno un paio di prove che riusciranno nell'intento. E diciamo che c'è stata una fetta di partecipanti, di candidate e candidati che fanno o facevano altri mestieri, e quindi hanno tentato, diciamo, la sorte di entrare nelle aule per prendersi questo posto fisso, e quindi forse o non si è presentata, quindi fa parte di quel 20%, oppure magari non si è addestrato, perché avevamo poi concluso che questi quiz un po' folli, veramente folli, del test preselettivo in realtà richiedevano un addestramento. Chi più si è addestrato probabilmente si è trovato meno impreparato, e quindi adesso dovrà far valere le sue doti di docente, di ammaliatore o ammaliatrice, no? Sì, comunque c'è da dire che questo sistema, no, al parte il fatto che lo giustificano con la grande mole di candidati, è un sistema, quello dei quiz ormai preselettivi, come vengono chiamati, che ormai viene usato nei concorsi, perché la gente che si presenta è in numero enorme, ma lo era del resto anche tanti anni fa, non c'era magari il modo informatico, però c'era il quiz, ed è lo stesso criterio che per esempio è stato usato nel concorso dei presidi, seppure lì era tutto un discorso molto specifico sulle competenze. E fra l'altro, tanto così per dare un'indicazione su come ragiona la Viale della Stevere, il concorso dei presidi, che aveva veramente, io così per passare il tempo un pochino mi ci sono addestrata per così dire, erano le stesse domande praticamente che c'erano anche nel qualcosa che non, ovviamente, che fuori dalla scuola non sa, cioè nella selezione per accedere, per quanto riguarda gli impiegati di segreteria, a un'area cosiddetta articolo 2, cioè un'area di competenza maggiore che sta fra il direttore, cioè il segretario, e l'applicato, come si chiama una volta, cioè quello proprio di basso livello. Quindi pure qui non si capisce un po' quali criteri vengono usati. Si potrebbe dire che questi quiz sono fatti intanto per vedere se uno c'ha il cervello, lo sa usare, ma insomma io credo che poi le componenti che intervengono all'interno di prove del genere sono veramente le più svariate, quindi sicuramente gente che ha insegnato, è bravissima, potrebbe dare tanto con altri criteri di giudizio, magari esclusa, e chi invece si è messo lì, si è allenato, eccetera. Credo che insegnare non sia peraltro solo un discorso di conoscenza, ma un discorso di capacità di trasmetterla, e quindi io non credo che chiunque voglia insegnare debba insegnare. Se noi abbiamo trasmesso questa cosa, perlomeno io me ne dissocio, però è pure vero che almeno saggiamo la capacità di insegnare. È un discorso assolutamente ipocrita, perché erano 320.000 concorrenti, ma se c'erano 320.000 persone che cercano un posto, rispetto anche alla loro formazione, non è che gli puoi imputare questa cosa ai 320.000. Ad Ascoli Piceno, una notizia che è uscita sui giornali un paio di giorni fa, che è un comune abbastanza piccolo, si sono presentati 1.600, tra i quali pare, si sussurra, anche laureati, 1.600 per dei posti da operatore ecologico. Pure a quelli hanno fatti quiz, e secondo me non erano molto diversi da questi. Penso di no, forse un pochino, magari non lo so adesso, però insomma ormai il criterio dei quiz si applica a tutti i tipi di concorso. Sì, e anche l'intercambiabilità dei quiz, perché per portare un altro esempio, io l'anno scorso sono stata tra quelle 35.000 persone che hanno fatto il concorso per essere abilitate a insegnare all'estero. Alla fine del concorso abbiamo scoperto che le domande che ci hanno fatto a quiz, risposta multipla, eccetera eccetera, che dovevano essere ovviamente assolutamente segretissime, al di là insomma delle assurdità di quel concorso, che ora non è il caso di mettersi a raccontare, ma veramente una truffa sostanzialmente, comunque quelle domande erano già su internet, cioè con le risposte, perché erano state utilizzate per un concorso per operatori ecologici nel comune di Napoli pochi mesi prima. Ora, noi ci siamo chiesti come mai l'operatore ecologico di Napoli debba sapere o il tedesco, il francese, o l'inglese o lo spagnolo, però detto questo le domande erano esattamente le stesse. L'agenzia che era stata pagata per elaborare le domande, la Formez, impiantata da Brunetta, di proprietà della moglie, eccetera eccetera, evidentemente ha preso i soldi due volte per le stesse domande. Questo poi è... Questo sicuramente. Comunque a Napoli certo che devi sapere quattro lingue, perché se gli devi dire al turista devi buttare la monnezza per terra, glielo devi sapere dire nella sua lingua. In altri concorsi poi questo test consiste quanto più rapidamente tu riesci a sfogliare delle pagine di un libro, sul foglio delle risposte c'è il numero della pagina che devi aprire su un altro librone, quindi diciamo diciamo qualcuno si può perdere in questo meccanismo, e magari qualcuno è anche bravo, avrebbe fatto un buon lavoro per quel posto. Io direi che, siccome dobbiamo passare a un altro argomento, se non vogliamo dire altro su questo, metterei poche note di musica, perché poi vorremmo parlare invece di una delle tante espressioni della repressione poliziesca nel nostro paese, con una corrispondenza telefonica, quindi il tempo di trovare questa persona. eccoci di nuovo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa dall'87.9. Un attimo solo perché c'è un rimbombo fastidiosissimo. Pronto, scusa per l'attesa e niente, vorremmo, insomma, tu sei un insegnante, vorremmo innanzitutto che ti presentassi tu come vuoi e che raccontassi la brutta storia in cui siete incappati. Ok, vabbè, io sono un'insegnante, una docente di un istituto superiore e niente, insomma, il 10 novembre è stato svolto questo flash mob a Velletri. Successivamente, circa 10 giorni dopo, qui a scuola si sono presentati 2 ispettori della polizia cercando di me e di un'altra collega. Hanno trovato me, non hanno trovato praticamente l'altra collega, almeno in quel momento. E praticamente, insomma, davanti a tutti i colleghi, eccetera, mi hanno chiesto praticamente di parlarmi in una sala appartata, dove questi 2 ispettori mi hanno chiesto se io ero presente al flash mob. Io ho detto che in quel momento non ricordavo se ero presente o meno e che loro avevano dei reperti fotografici e che praticamente secondo loro c'era un'ipotesi di reato e mi chiedevano l'elezione di domicilio. Quindi sono andati via, chiaramente la scuola un po' in subbuglio, insomma, perché chiaramente nessuno si aspettava un evento del genere. Sono usciti di qua, sono andati presso un altro istituto dove hanno identificato un secondo collega e dopodiché, insomma, vabbè, noi chiaramente abbiamo cercato un legale che ci difendesse da questa eventuale ipotesi d'accusa e ancora dopo 10 giorni hanno raggiunto telefonicamente altri 2 colleghi a cui hanno chiesto praticamente di andare a ritirare praticamente questa richiesta, questo avviso e quindi adesso praticamente siamo in 4 con questa ipotesi di reato. Niente, tutto qual è precisamente l'ipotesi di reato? No, nella lettera, nella comunicazione, nella lezione di domicilio non è indicato il reato. Diciamo che noi pensiamo manifestazione non autorizzata, ma francamente anche consultando l'avvocato non riscontriamo, non c'è nessuna ragione, anche perché i flash mob ne abbiamo, sono stati fatti tantissimi, quindi francamente non capiamo quale tipo di reato ci venga contestato. Quindi siamo in attesa, insomma, che eventualmente ci comunichino qual è il reato. Senti, si tratta di un fatto che è avvenuto in un paese sostanzialmente. Sì, è avvenuto in un paese. Le forze dell'ordine. E credo che non sia neanche l'unico caso di paesi, diciamo, relativamente piccoli che hanno ricevuto questi avvisi. Senti, le forze dell'ordine si sono presentate, erano quelle del paese? Sì. Cioè, nel senso, perché quello che io la vedo in tutta questa modalità che le forze dell'ordine hanno usato nei vostri confronti è anche, come dire, un chiaro intento di minaccia, e perché il fatto di essere venuti a scuola, cioè è chiaro che... Sì, infatti potevano, una volta che ci avevano identificati, potevano anche comunicarlo eventualmente verso i rispettivi domicili, e invece, pur potendolo fare, perché loro informati che possono farlo, si sono presentati a scuola. Per fortuna, da un certo punto di vista, i ragazzi erano in occupazione, quindi non hanno notato tanto questo trambusto, e quindi non si sono accorti della faccenda, anche perché ovviamente, come puoi immaginare, è un po' antipatico rispetto a un docente che presso le scuole possa arrivare una cosa del genere. Però insomma, così si è verificato. Avete avuto conseguenze, diciamo, con le dirigenti? No, al momento no, assolutamente no. Devo dire la verità, né da parte dei docenti, e abbiamo praticamente tutti i colleghi che ovviamente sono dispostissimi a autodenunciarsi, anche se l'avvocato al momento l'ha sconsigliato. Sì. Questo è tutto. Sì, e quindi insomma voi siete in attesa e... Sì, sì, siamo in attesa, presupponiamo di avere qualche notizia con l'anno nuovo, però francamente non so ancora di che cosa siamo accusati. Sì, quello che viene in mente a me è che è un fatto simile, anche se lì non erano state cercate persone in specifico, era avvenuto a Pomezia, dove le forze dell'ordine sono andate nelle scuole superiori il giorno dello sciopero generale, il 14 novembre, a chiedere sostanzialmente i nomi dei docenti che avevano partecipato allo sciopero, poi dopo hanno negato di averli chiesti, eccetera eccetera. Però anche qui si tratta appunto di un piccolo centro, e quindi dove il controllo sociale, quindi anche il controllo poliziesco, in qualche modo è anche più facile, non so, questa è una mia riflessione, non so nemmeno se... Perché chiaramente hanno un territorio più piccolo da dover, tra virgolette, salvaguardare, e quindi è più facile, insomma. Di fatto sì, è molto più semplice rispetto a una città, questo è scontato. Dunque io credo che questo sicuramente rientra in un quadro generale nel quale poi si muove la magistratura e le forze cosiddette dell'ordine, perché anche da livelli insomma elevati del Palazzo di Giustizia c'è stato, diciamo, si è parlato spesso della possibilità che a livello sociale si potessero determinare situazioni insomma di insofferenza, per non dire proprio di più, e quindi già si capisce e si vede, ma non solo da questo episodio che è comunque eclatante dato l'inconsistenza assoluta delle cose che si potrebbero contestare, che appunto è comunque un comportamento che da parte del governo, perché questi poi sono sicuramente disposizioni che non è che vengono prese a livello locale, ma rispondono a indirizzi molto più in alto e che mirano proprio a intimidire, a spaventare, a far rientrare nei ranghi chiunque, proprio anche cioè proprio con flash mob, che è quanto di più innocuo, no? Vabbè, comunque la cosa di controllare non ci hanno bloccato, appunto cerca di dire la sua. Ma dal punto di vista praticamente proprio dell'attività rispetto a un periodo molto complesso per la scuola, sicuramente non ci hanno bloccato, visto che in ogni caso noi abbiamo sabato fatto ancora una fiaccolata, quindi non credo proprio che se questo era l'obiettivo, io non penso che praticamente ci riescano, almeno allo stato attuale. Bene, queste sono le parole che volevamo sentire. Se non vuoi aggiungere altro, ti ringraziamo. No. E magari insomma ti scriveremo in modo che tu abbia i nostri contatti e che tu ci faccia sapere come prosegue questa vicenda. Senz'altro, non ti preoccupare. Grazie. Buona serata. Ciao. Oh, ciao. Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo, nel giardino incantato vento lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte, inventò le stagioni. Se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato. Questa l'avete senz'altro riconosciuta, era un blasfemo di De André, che, come dire, preannuncia il tema con cui chiuderemo questa trasmissione prenatalizia dell'ora di buco, perché prenatalizia perché martedì prossimo è proprio Natale, e quindi non perché qui nessuno creda in Dio, ma ugualmente staremo a casa a strabuzzare di cibo e quindi non trasmetteremo l'ora di buco. E comunque sono tutte feste pagane poi appropriate come i marmi del Colosseo dai preti, quindi noi le festeggiamo in quel senso. Mangiamo, in sostanza, beviamo, eccetera, eccetera. E passiamo appunto a un altro argomento. Sabato scorso qui a Roma c'è stata un tentativo di assemblea nazionale dei coordinamenti della scuola, dico un tentativo non perché sia fallito, nel senso che c'era una sessantina di persone, ma ovviamente costruire una mobilitazione nazionale, incontrarsi anche con quanto costano i treni in questo paese, diventa sempre più complesso. Comunque l'assemblea c'è stata e ha anche prodotto qualche risultato. Sì, diciamo che l'assemblea è stata più partecipata rispetto alle aspettative, anche in considerazione del fatto che molti partecipanti, per esempio al coordinamento romano, ma anche ai diversi coordinamenti locali, sono precari, e quindi era alla vigilia esattamente del concorso, per cui ho apprezzato la sessantina di persone. Era effettivamente, c'erano rappresentanti di diverse città d'Italia, e in particolare da Cagliari, Bari, Ferrara, Napoli, Genova, Modena, Latina e così via, insomma. E effettivamente, diciamo, la discussione mi sembra sia stato un confronto produttivo e proficuo, e ha dato luogo tra l'altro a un comunicato che appunto esprime prima di tutto la decisione di far nascere questo coordinamento nazionale, e questo coordinamento nazionale ha come fine quello di costituire una piattaforma, diciamo, approfondita e condivisa sulle politiche da mettere in atto per rilanciare la scuola pubblica, e diciamo di continuare quello che è l'atteggiamento, diciamo così, e l'attività di controllo e di informazione sulle politiche in materia di scuola. E il risultato forse più evidente è stata quello di indire una manifestazione nazionale con un corteo a Roma. Si è lungamente discusso se fosse preferibile una manifestazione nazionale o diverse manifestazioni locali, ma è prevalsa l'intenzione di realizzare appunto una manifestazione nazionale per sabato 2 febbraio a Roma, con diciamo sulla scuola pubblica di tutti e per tutti. La piattaforma è abbastanza articolata, sebbene si sia scelto in qualche modo di rinunciare ad alcuni punti anche abbastanza qualificanti. Il primo punto della piattaforma è appunto il rifinanziamento della scuola pubblica statale, e viene chiesta proprio la restituzione degli 8 miliardi di euro che sono stati sottratti dal governo Berlusconi, e l'adeguamento al finanziamento con gli altri paesi dell'OCSE. E la fine, lo stop ai finanziamenti delle scuole private, è fatto che evidentemente darebbe modo di rilanciare la qualità qualità dell'istruzione pubblica statale e di diminuire tra le altre cose il numero degli alunni per classe. E evidentemente un altro punto sta nel recepire la difficoltà dei colleghi precari, e quindi viene chiesta l'assunzione dei precari a tempo indeterminato su tutti i posti su tutti i posti vacanti. E poi evidentemente la questione dei progetti di privatizzazione e di aziendalizzazione delle scuole, e quindi evidentemente viene citato il disegno di legge Aprea-Ghizzoni, sebbene non sia più un fatto di attualità. E da ultimo l'ultimo punto è legato proprio al tema della produttività, di cui abbiamo parlato già nelle scorse trasmissioni, e quindi evidentemente viene ribadita la questione del no all'aumento dell'orario di lavoro degli insegnanti. Questa manifestazione dovrebbe essere costruita, diciamo, in coordinamento con tutte le forze del mondo della scuola, quindi evidentemente non una manifestazione di soli insegnanti, tutto il personale della scuola, ma anche evidentemente c'è la necessità di un coordinamento forte con gli studenti e le studentesse, e poi con tutti i lavoratori e le lavoratrici in generale, e in particolare i lavoratori e le lavoratrici della sanità e di quelli che possiamo ritenere comunque beni comuni, in particolare un'apertura e la possibilità di condividere l'organizzazione stessa della manifestazione con il Forum Italiano, in particolare dei movimenti per l'acqua, proprio perché questa giornata di lotta per la scuola diventi una giornata in difesa dei beni comuni fondamentali. Sono state ribadite evidentemente altre priorità, e tra queste mi piace citare proprio la opposizione netta, tanto nel merito quanto nel metodo, evidentemente, ai test invalsi, e è stata ribadita la necessità di sollecitare l'indizione di uno sciopero nazionale nel giorno della somministrazione dei test invalsi, che sembra essere l'unico modo per sottrarsi anche compattamente a quella che è, se non altro, la somministrazione dei test. Non so se chi c'era ha voglia di aggiungere qualcos'altro. No, direi che è del tutto esaustivo, insomma, il tuo racconto, e ovviamente seguiremo la costruzione di questa manifestazione. Intanto invece vi facciamo sentire un altro pezzettino musicale per introdurre il tema di cui andiamo a parlare. Ma era di là dalle barricate, l'uomo in bianco Ecco, il papato chi l'ha invitato ci sembrava la giusta introduzione a questa ultima fetta di trasmissione. È un tema che tratteremo anche molte altre volte, ma prima di Natale ci sembrava imprescindibile, e appunto il papato chi l'ha invitato nella scuola pubblica? Noi di certo no. Sì, questa è solo un'introduzione alla questione dell'insegnamento della religione cattolica, perché è questa che si insegna, questa che è codificata nelle scuole italiane. Brevemente fu introdotta col concordato del 29 tra Mussolini e la Chiesa Cattolica, perché in precedenza, dopo la breccia di Porta Pia, non si parlavano molto, ma come tutti i fascisti anche Mussolini vedeva come imprescindibile un accordo con la Chiesa, che poi per del resto la Chiesa è stata ben felice di dare, anche perché quello che ha avuto in cambio è stato veramente tanto. E questo concordato rimane in vigore così com'è fino all'85, quando Craxi, il governo Craxi, stila un altro accordo con la Chiesa Cattolica e ridefinisce un pochino i criteri, ma nella sostanza cambia abbastanza poco, nel senso che prima era un insegnamento obbligatorio, prevedeva un determinato numero di ore nei vari tipi di scuola, ma per esempio, per quello che ricordo, nella materna e nell'elementare non è che arrivasse il prete o il professore di religione specifico, mentre dalle medie in su c'era un insegnamento riservato appunto a un incaricato specifico, che spesso era religioso ma non sempre, comunque per lungo tempo sono stati in prevalenza. E era possibile prima dell'85 esonerarsi, ma insomma bisognava dichiarare il motivo, era qualche cosa che poi ovviamente ti faceva anche spiccare, no? Come strano, come diverso e così via, per cui molti genitori, anche avendone tanti motivi, poi preferivano soprassedere. E nell'85 Craxi appunto fa questo nuovo accordo, e a quel punto l'insegnamento della religione formalmente non è più obbligatorio, perché ma non è nemmeno facoltativo, ovvero ci si definisce avvalentesi o non avvalentesi, quindi usare il termine come avvalentesi, cioè io mi avvalgo di qualche cosa, sembra che insomma questa qualche cosa ci abbia comunque un valore positivo. E qui comincia tutto il tourbillon appunto dell'iscrizione, nella quale bisognava dichiarare o meno per i propri figli, se minori, di questo avvalersi della religione. Adesso, senza, oggi non vorremmo andare nello specifico, che è pure interessante, di che cosa significhi questo nella gestione poi della classe, negli scrutini eccetera, ma dare un po' un'informazione su come vengono poi reclutati questi insegnanti, che rappresentano veramente un'anomalia, per non dire altro, all'interno del sistema di reclutamento di tutte e tutti coloro che lavorano nello Stato, che più o meno vengono assunte con concorsi, sia come quello di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione, sia magari concorsi per titoli, ma insomma in base a delle regole che dovrebbero essere uguali per ognuno. E i docenti di religione invece vengono dichiarati idonei all'insegnamento della religione dal vicariato, che è un'istituzione che promana, se non sbaglio, dal vescovo di ogni città. Quindi l'unico ente che può decidere, se in base a criteri per noi insondabili, che questa persona possa accedere all'insegnamento e quindi prendere uno stipendio uguale, pure qui c'è da dire comunque, a quello di docenti che invece vengono assunti con altri criteri, è demandato completamente a questa autorità religiosa, l'unica che può deciderlo. Fino a qualche anno fa formalmente poi c'era il dirigente della scuola, il preside, che poteva ratificare o meno, che faceva questo contratto, e in realtà in teoria avrebbe anche potuto non accettarlo. Io non ricordo in tanti anni di lavoro nella scuola che sia mai successo, se non una volta è successo, anche abbastanza, sì, mi guardano i miei compagni di trasmissione, dice ma va, è successo per motivi che poi vabbè è inutile stare a dire, ma comunque niente di terrificante. Però è successo che diversi anni fa, evidentemente anche per evitare questo, il passaggio non è stato più da vescovo a preside, ma da vescovo a provveditorato agli studi, cioè all'ente regionale che amministra la regione e poi la provincia, e quindi le varie scuole che si riferiscono alla regione e alla provincia. Quindi la nomina di fatto viene fatta dall'ufficio provinciale promanato dal ministero, e quindi a quel punto il preside non può assolutamente fare nemmeno formalmente nessun tipo di opposizione, ma deve esclusivamente ratificare questa designazione. Quindi questi docenti in realtà, che non sono mai licenziati, una volta che entrano in servizio loro hanno l'insegnamento per tutto l'anno scolastico. Ricordate quando in trasmissioni precedenti abbiamo parlato delle supplenze annuali che scadevano il 30 giugno e di quelle che scadevano il 31 agosto? No, i docenti di religione lavorano dal 1 settembre dell'anno scolastico fino al 31 agosto dell'anno solare successivo, quindi per tutto l'anno scolastico. E chi paga gli stipendi, cioè la direzione, la ragioneria territoriale dello Stato che paga gli stipendi in ogni provincia, automaticamente glielo continua a pagare per il settembre successivo, dal primo settembre successivo. Questo tanto per farvi capire, anche se magari il contratto arriva dopo, perché tanto è sicuro. Addirittura io so che le banche, per la concessione di un mutuo, dal professore di religione, dall'insegnante di religione, chiedono che gli venga, che venga appunto dichiarata esclusivamente questa cosa, anche se è formalmente precario perché è sempre a tempo determinato, e questo per loro è sufficiente evidentemente per equipararlo a un docente di ruolo. Mentre se tu sei un professore con una nomina annuale, io non lo so come si comporta la banca, ma insomma credo non nello stesso modo. Beh, guarda, un collega che conosco che insegna alle primaria, per fare un esempio, manco per un motorino la banca gli ha dato il mutuo, e quindi lui... Anche se magari adesso può succedere, in passato succedeva che tu comunque lavoravi, adesso da 2 anni non è più così, ma che tu lavoravi e poi venivi riconfermato praticamente. E quindi si viene a questo assurdo, anche perché il numero di quelli che si avvalgono della religione cattolica è qualcosa che potrebbe, noi lo spieghiamo molto, diminuisce molto molto lentamente, e in ogni caso poi è su quello che si, come su tutti gli altri tipi di cattedre, che si basa poi la nomina degli insegnanti, cioè non è che stanno così. C'è un numero di iscritti, addirittura da diversi anni le iscrizioni non si fanno più a giugno ma si fanno a gennaio, proprio per dare il tempo di poter organizzare l'organico, cioè la distribuzione delle cattedre nelle varie scuole. Però nonostante questo, chi entra anche a tempo determinato a insegnare religione sta tranquillo che, a meno che non si comporti bene dal punto di vista del vescovo, nessuno lo sposterà più da lì. Ci sono infatti l'unico caso, gli unici casi che possono appunto far revocare una nomina, o comunque non rinnovare una nomina perché formalmente è così, sono casi di comportamenti immorali, insomma comportamenti evidentemente non consoni a quello che il vescovo pensa debba essere il comportamento di un insegnante di religione. È successo anche questo in passato. Io ricordo che ci fu una docente che mi sembra rimase incinta fuori dal matrimonio, non gli venne rinnovata dal vescovo l'idoneità, fece causa perché nello Stato italiano non puoi essere licenziata se sei in gravidanza, ma su questo lo Stato non intervenne. Il commento mio personale è che non si può entrare in un modo e poi volere, diciamo, rimanere in un altro, ecco, non so se mi sono spiegata. Se si accetta una via più facile, poi se, quell'unico caso che io ricordo, se ne aspettino pure le conseguenze. Sì, c'era stato anche un altro caso recente di un professore di religione gay dichiarato che a scuola, è il Keplero mi pare, qui liceo Keplero di Roma, e nelle sue lezioni parlava di tutto e non ha avuto più il rinnovo, diciamo, ha perso la fiducia della curia, e quindi condivido quello che ha detto la compagna. Io volevo dare dei numeri. Oggi parliamo di più di 26.000 docenti che insegnano l'ora di religione. La metà di questi sono di ruolo. Dal 2003 c'è una legge dello Stato votata dal Parlamento che istituisce che un docente possa diventare di ruolo, come molti docenti, anche chi vi parla, e l'altra metà è precario nei termini che sono stati appena detto, quindi ogni anno deve passare il vaglio della se ha risposto o meno alle aspettative e dogmi della dottrina cattolica. E dopodiché forse ci sono dei dati sul... che questi 25.000 insegnanti, 26.000 insomma, ovviamente vengono pagati dallo Stato e non si capisce poi perché, visto che vengono nominati dalla Curia, viceversa. Beh, la spesa per la loro retribuzione nel 2008, questi sono i dati che abbiamo al momento, è di circa 800 milioni di euro, pari a circa il 2% della spesa complessiva della scuola italiana, insomma, quindi una bella cifra, eh? Non... Anno, diciamo, ogni pure anno. Diciamo pure che me lo so scordato, ma comunque, no, comunque questa... diciamo un'altra cosa, che c'è una disparità al di là del tipo di nomina, come vengono nominati, che già basterebbe, ma c'è anche una disparità di trattamento economico forte. Questi docenti dall'88-89 hanno diritto alla ricostruzione di carriera dopo 4 anni in determinate condizioni, vale a dire che quello che non viene riconosciuto, che è stato fatto anche oggetto di ricorsi giudiziari, e recentemente c'è stata una sentenza della Corte Europea proprio su questo argomento, nonostante passino anni, ma parliamo di 10-15 anni di precariato, rimangono sempre a stipendio zero. La sentenza recentemente ha detto che l'Italia ha bisogno che provveda, perché dopo 36 mesi in cui tu fai lo stesso lavoro nello stesso posto, in questo caso lo Stato, sei da considerare stabilizzato. Per i precari normali di questo non si parla, invece i precari, chiamiamoli così, di religione, nell'88, quindi insomma parecchi anni fa, gli viene riconosciuta la possibilità di una progressione di carriera, quindi dopo 4 anni viene riconosciuto il pregresso con certi criteri, quindi un pochino meno che ai docenti di altre materie, e quindi viene riconosciuto un livello retributivo più o meno pari a quanto loro hanno insegnato da precari. In più gli viene attribuito, in ogni caso, se non maturano questo diritto, che è legato al fatto comunque di avere al momento della richiesta un orario di cattedra completo, però hanno diritto a aumenti biennali del 2,50%. Gli aumenti biennali sono completamente scomparsi. Non ci sono più, adesso pure sono scomparsi pure quelli, i cosiddetti gradoni, e adesso stanno ridiscutendo di quelli del 2011, ma insomma, e invece a loro viene riconosciuto questo. Poi sulla questione del concorso, nel 2003 vigente la ministra Moratti, viene fatta appunto questa legge, e io mi piacerebbe andare a vedere come ha votato la cosiddetta opposizione all'epoca, come ha votato tutto a favore, te lo dico. Esatto, c'avevo sto sospetto. Per cui loro hanno fatto un concorso che io non ho visto nessuno appunto svenire davanti alla possibilità di fare questo concorso, e certamente era molto diverso e molto più semplice di quello che stanno affrontando adesso in questi giorni gli insegnanti e le insegnanti, e con determinate condizioni, un certo numero di anni, adesso non lo so, e così via, questi qui sono passati di ruolo. La cosa più grave è che, ove mai, e questa è sempre una possibilità, e sparissero delle cattedre di religione, ma fino adesso succede se proprio deve crollare proprio la scuola materialmente, e questi qui possono accedere all'insegnamento in un'altra classe di concorso, pur non avendo punteggio assolutamente per quella classe, con una domanda di trasferimento per esempio, e andare a fregare praticamente la cattedra a qualcuno che magari sta lì da anni e anni in quella materia, e tranquillamente piazzarsi lì. Questo è successo, ci sono docenti che magari, solo non perché avessero perso posto, ma perché magari erano entrati così a fare questo tipo di lavoro, però magari erano abilitati in filosofia e adesso insegnano filosofia. Sì, poi c'è anche, per chiudere questo argomento, c'è anche un altro fatto, che il vescovo può comunque non volere più che quella persona insegni religione, anche se quella è entrata di ruolo. Se quella è entrata di ruolo, è comunque un dipendente dello Stato a tempo indeterminato, e quindi comunque lo Stato gli darà un altro posto, sempre a insegnare presumibilmente un'altra materia. Quindi questo, volendo, può essere anche un modo per inserire molte persone volute dai vescovi dentro le nostre scuole. Con questa notizia inquietante, noi vi salutiamo e vorrei chiudere, non chiudere l'argomento sull'ora di religione, perché ne parleremo a lungo a gennaio, ma questa puntata di oggi, invitando tutte e tutti coloro che ci ascoltano, che hanno figli, a non iscrivere i figli all'ora di religione cattolica. Non li fate avvalere, lasciateli nei corridoi se non c'è l'alternativa, va bene tutto, ma questi vanno tolti dalla scuola pubblica, e l'unico modo in questa temperie politica di toglierli è non iscrivere i ragazzi e le ragazze all'ora di religione. E questa cosa si può fare, ve lo chiederanno a gennaio, ve lo chiederanno dalla materna all'ultimo anno delle scuole superiori. A mio parere la risposta corretta è sempre la stessa: non avvaletevi. Molte anche maestre cattoliche hanno detto, io non, perché lì alla primaria eccetera lo può fare la maestra, ha detto no, io non lo insegno, poi sono credente, ma a me non, questa cosa mi pare assurda, insomma. Quindi non è un discorso proprio di così, slegato anche da quello che uno può credere o può non credere. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì 8 gennaio dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Vabbè, auguri per il nuovo anno, certamente. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il